Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Imprimatur, secretum, veritas, mysterium, dissimulatio unicum. No, non sono impazzita qui al Cacciatore di libri, ma questi sono 7 romanzi che sono stati scritti da una coppia di italiani. E sono romanzi storici ma pieni di misteri, sia per le storie che raccontano, sia per il modo in cui sono stati pubblicati, poi sono usciti fuori dal commercio, all'estero hanno avuto un successo incredibile e adesso vengono ripubblicati in Italia. Allora andiamo per ordine. Il romanzo di cui parliamo oggi si intitola Imprimatur, l'hanno scritto appunto la coppia Rita Monaldi e Francesco Sorti, ora pubblicato da Baldini e Castoldi. Sottolineo ora pubblicato appunto perché era un libro che era stato già pubblicato nel 2002 da Mondadori, aveva avuto anche un certo successo di pubblico, poi misteriosamente, come dire, è scomparso dalle librerie italiane, poi cercheremo anche di capire perché. Ma prima iniziamo a raccontare un po', anche sull'onda di questa musica che sentiamo, questa musica ha molto a che vedere con il libro, poi chi lo leggerà insomma capirà. Iniziamo a raccontare la trama del libro per addentrarci un po' nella storia appunto. Il protagonista di questi 7 libri, Imprimatur è il primo, è Atto Melani, che è un consigliere di papi, principi, re. Innanzitutto sono tutti ambientati fra il 1600 e il 1700. In questo Imprimatur succede qualcosa che mi ha ricordato un po' il giallo all'Agatha Christie, cioè in un locale c'è qualcuno che sta male, muore, non si capisce se è stato avvelenato o se c'è un caso di peste, tutti vengono tenuti all'interno di questo locale e questo Atto Melani cercherà di scoprire che cosa c'è dietro questa morte. Allora partiamo da Rita Monaldi, insomma, come potresti descrivere questo personaggio, questo Atto Melani? Atto Melani è il personaggio ideale di una coppia di scrittori, metà maschio, metà femmina. Era un cantante castrato che parallelamente svolgeva attività di spia, diplomatico, agente segreto al servizio del Re Sole, prima di lui del Cardinal Mazzarino, ma anche un po' doppio giochista al servizio dei medici, di Duchi di Mantova. Insomma, un bel personaggino ne sapeva di cose, di segreti. Assolutamente. Diciamo subito che voi vi siete ispirati per tutti i vostri romanzi, a partire appunto da Imprimatur, da documenti che esistono realmente, quindi è un romanzo storico nel vero senso della parola, cioè che si basa su documenti veri, vero Francesco? Beh sì, diciamo siamo abbastanza spietati nel nostro modo di procedere. Se non possiamo scrivere qualcosa che sia storicamente vero o almeno possibile, allora non la scriviamo, e quindi per qualsiasi dettaglio, anche secondario, non so che bicchieri usa un dato personaggio quando beve, oppure quali parole usa per descrivere questo o quella cosa, beh, ci riferiamo sempre ai documenti e quindi andiamo a caccia negli archivi. Ma Atto Melani è un personaggio di fantasia o realmente esistito? No, realissimo, vero e reale, e solo che la storia della sua vita è già un romanzo di per sé, perché nasce poverissimo all'inizio del 600 a Pistoia, è uno dei 7 figli del campanaio del Duomo di Pistoia, e compie una escalation sociale incredibile, perché muore poi a quasi 90 anni a Parigi, invece ricco, famoso e riverito grazie alle sue doti di prima di castrato e quindi di cantante, che va per tutti i teatri d'opera della penisola e poi entra nelle corti. Una volta entrato nelle corti viene utilizzato volentieri per propalare voci, per raccogliere informazioni, insomma tutto il classico lavoro della spia, con i suoi doppi, tripli, giochi, sì. E però entra così nelle grazie dei potenti, addirittura si inserisce benissimo nella corte pontificia, alla corte del Papa, e pare che sia riuscito, anzi ci sono le prove piuttosto certe, a determinare o influenzare in modo decisivo l'elezione di un Papa che era pistoiese come lui, era suo amico. Lui riesce a farlo gradire al re di Francia e a farlo eleggere. Infatti abbiamo scoperto a Parigi anche un un trattato scritto da Atto Milani in cui insegna quest'arte, cioè l'arte di inquinare i conclavi per fare legge il Papa che fa più comodo politicamente. E qui nasce il mistero nel mistero. Perché? Perché questo libro, come dicevamo prima, è stato pubblicato nel 2002, poi è scomparso dalle librerie, almeno quelle italiane, perché all'estero avete avuto un successo incredibile, e si sospetta, almeno questa è l'idea, che non sia stata gradita l'ipotesi che voi fate appunto nei romanzi, che Papa Innocenzo XI abbia favorito la rivoluzione protestante in Inghilterra. È effettivamente così, Rita Monaldi? Ma per noi rimane un mistero tutt'oggi, perché noi abbiamo avuto vari input, soprattutto da giornalisti. Faccio un esempio: marzo del 2002 è uscito in prima tour per Mondadori, nel novembre eravamo a Bruxelles a presentare l'edizione francese e un giornalista ci ha detto: sapete, io sono molto amico di Virginie Vassar, una giornalista belga che presenta una rubrica di libri per Rai 2 in Italia. L'ho sentita, le ho detto che vi avrei intervistati e lei ha detto: ah, conosco Imprimatur, ma mi hanno detto assolutamente che è un tabù totale, che non si può assolutamente parlare di questo libro. Ma perché? Cioè, è così rivoluzionaria l'idea che Innocenzo XI abbia appunto fatto quello che voi raccontate? Allora, noi abbiamo fatto i giornalisti. Allora, quando nel 1998 ci siamo trovati davanti ai libri mastri, cioè i libri dei conti del Papa e della sua famiglia, che dimostravano i prestiti fatti ai protestanti per cacciare la religione cattolica dall'Inghilterra. La prima cosa che ho fatto io personalmente è stata alzare il telefono e chiamare la Congregazione per le Cause dei Santi in Vaticano, perché avevamo già avuto tanti guai da giornalisti e non volevamo averne più. Loro mi dissero di chiamare i gesuiti, perché erano loro che si occupavano della causa di Innocenzo XI. Ho chiamato i gesuiti e sarebbe dovuto diventare santo, invece poi no. Era stato fatto beato nel 1956, io volevo sapere se fosse, tante volte così in predicato, di essere anche canonizzato, e i gesuiti mi hanno detto assolutamente no, perché occorre un miracolo dopo, certo, la beatificazione, e non è stata fatta. Non c'erano insomma gli elementi, dice, appunto, anzi fece anche una risata, mi ricordo, il gesuita, dicendo: ma non credo che insomma un papa così, un po' passato così, è stato archiviato. Per cui noi siamo andati tranquilli, e invece poi Wojtyla modificò il processo di canonizzazione, per cui non serve più questo miracolo post beatificazione, così ci hanno detto, e quindi era di nuovo, si è rimesso di nuovo in carreggiata, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle, il papa che ferma il pericolo che viene da Oriente, perché obiettivamente Papa Innocenzo XI ha fermato i turchi. Che se no sarebbero arrivati assolutamente a San Pietro. Ecco, ma a questo punto voi pensate che ci sia stato, come dire, una sorta di complotto nel far sparire il vostro romanzo dalle librerie? Insomma, che cos'è che è successo? Che idea vi siete fatti? Guardi, io posso rimandare chi ci ascolta a un libro che è stato scritto su questa storia, quindi ha sviscerato con un'indagine tutta questa questione. Il libro si chiama Il caso Imprimatur, è stato scritto da Simone Berni, che è un noto bibliofilo e cacciatore di rarità librarie, e lui tra l'altro adesso il libro uscirà con un'edizione aggiornata. Chi si vuole fare un'idea nel dettaglio può leggere questo libro. Noi possiamo dire: beh, quando uscì questo libro non venne fatta nessuna presentazione nelle librerie, non venne fatta una correzione di bozze, sparì perfino dai cataloghi, nel senso che non venne messo nei cataloghi, cioè non è più in vendita con la vecchia casa editrice, insomma adesso è in vendita questo romanzo con Baldini e Castoldi, sì. Quindi lo si può trovare nelle librerie tranquillamente. Sì, ma e poi questo, noi siamo così contenti dopo 13 anni in cui i nostri libri hanno fatto un po' il giro del mondo, tranne che nel nostro paese, di cui amiamo follemente tutto e soprattutto la lingua, perché noi scriviamo in italiano, non certo. Dimentichiamo, siamo così contenti in realtà di questo ritorno, che non non, è, non pensiamo volentieri alle vecchie amarezze, ovviamente poi quando ci chiedono cosa successe, insomma, non possiamo non rispondere. Assolutamente, infatti questo è un libro che è stato tradotto, visto, in cinese, in thailandese, in una sessantina di lingue, insomma avete venduto veramente moltissime copie all'estero. A questo punto veramente mi chiedo che cosa c'è di così scottante, che cosa che fa paura in questo imprimatur per averlo così messo un po' da parte in Italia. Ma noi ci accodiamo a quello, al giudizio che ne ha dato lo storico Franco Cardini, che è intervistato nel 2009 dal vostro collega Giuseppe Cruciani, diede una, quella che secondo noi è la lettura più equilibrata e poi anche, diciamo, proveniente da una voce esperta. Assolutamente. E lui disse: sì, io lo vedo bene, diciamo, nell'ottica, nella prospettiva, dal punto di vista del Vaticano, di bloccare due autori esordienti che hanno commesso il peccato di aver grufolato negli archivi ed aver trovato questi delle libri cose mastri che non dovevano, esatto, uscire. Insomma, ho letto che voi detestate Dan Brown, no? Perché tutto questo romanzo fa pensare: ah, ma guarda, mi ricorda quasi quasi il codice da Vinci, no? Quindi dovrei quasi consigliarlo a chi ha amato il codice da Vinci, invece voi siete veramente proprio spietatissimi Brown. No, per carità, no, sappiamo a malapena che faccia abbia, non abbiamo nulla contro. Poi è sempre brutto esprimersi contro un... No, però al di là dello scherzo, però insomma siete critici sul fatto che i suoi non sono romanzi documentati, sono pura fiction. Beh, ci pare che ci sia un parere abbastanza unanime su, sì, questo, non siamo, sì, noi a dirlo. E quindi quello che appunto a noi dispiace, al di là di questo o quello scrittore, è quando il pubblico viene in qualche modo illuso, spende soldi, spende tempo, spende la propria fiducia di lettore, perché comprare un libro è sempre un atto di fiducia che va fatto, però... va fatto diciamo oculatamente, quando si hanno le informazioni adatte. Ecco, il pubblico è stato un po' illuso di trovare delle rivelazioni, invece ha trovato delle cose di fantasia, e questo ovviamente secondo noi ha arricchito indubbiamente gli editori Dan Brown e Dan Brown, ma ha impoverito i lettori, perché hanno imparato a essere diffidenti. Imprimatur invece, abbiamo detto, è fondato su documenti veri, reali, insomma, che voi citate. Gli altri libri a questo punto, perché abbiamo detto sono 7 libri, li ho citati all'inizio, tutti con il titolo in latino, usciranno in Italia? Assolutamente sì, tutti per Baldini e Castoldi, che ci ha fatto l'onore di acquistarli tutti in blocco. A ottobre uscirà In Secretum, e poi un altro anno in aprile Veritas, a gennaio... Insomma, chi si appassionerà a questo imprimatur potrà trovarne, insomma, poi presto in libreria anche gli altri. Ma sono libri collegati o collegati solo dalla presenza di Atto Melani, insomma, il protagonista? Sono collegati dalla presenza di Atto Melani, ma ognuno è un caso a sé. In questo caso appunto deve risolvere anche questo caso misterioso, insomma, di morte, avvelenamento, peste, non si sa bene che cosa sia. È un romanzo, ve lo dico subito, come spesso succede per i romanzi storici, abbastanza corposo, insomma siamo sulle 600 pagine, poi c'è anche un appendice alla fine, però è un romanzo sicuramente, insomma, affascinante, sicuramente che può piacere a chi è appassionato di misteri vaticani e non solo. Grazie a Rita Monaldi e Francesco Sorti per essere stati con noi. Grazie a voi. Il loro romanzo, ve lo ricordo, si intitola Imprimatur, pubblicato da Baldini e Castoldi. Poi prossimamente saranno pubblicati anche gli altri romanzi, e sono veramente curiosa di sapere cosa ne pensate. Scrivetemi poi al cacciatore di libri @radio24.it. Una breve pausa e poi ancora un libro. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella Domenica degli Italiani. su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Il cacciatore di libri. Ed da un romanzo che ci tiene a definirsi storico come imprimatur, passiamo a un romanzo che è solo apparentemente storico, ma invece lo scrittore ci tiene a sottolineare che non si tratta di un romanzo storico. Si intitola La mappa, l'ha scritto Vittorio Giacopini, pubblicato dal Saggiatore, è stato uno dei 5 finalisti del premio Campiello. Protagonista è Sergio Victor, personaggio di fantasia, cartografo di Napoleone durante la campagna d'Italia. Si seguono naturalmente le sue vicissitudini pubbliche, diciamo professionali più che altro, e anche private. Ma perché Giacopini insiste con forza nel dire che non si tratta di un romanzo storico, seppur ambientato appunto nel passato? Sentiamolo. Perché non è un romanzo storico? Perché il romanzo storico è un genere che cerca di, come dire, affidarsi a una convenzione, che è quella di mettere delle storie individuali più o meno affascinanti all'interno della grande storia, che non viene per niente smentita. La grande storia è il presupposto. E invece io ho cercato di scrivere un romanzo che mette in discussione proprio la razionalità della storia, e allora ho preso un personaggio, un cartografo, che con il suo tipo di attività in realtà smentisce continuamente in tutto quello che fa la storia ufficiale, perché oppure la storia ufficiale smentisce i compiti che gli affida. Nella mia finzione questo personaggio viene incaricato da Napoleone e dal suo agente, cioè, diciamo, segreto Saliceti, di realizzare la grande mappa della prima campagna d'Italia, e poi però questa mappa, diciamo, diventa imbarazzante per Napoleone, diventa imbarazzante per il potere, diventa imbarazzante anche per il mio cartografo, e allora insomma gli viene in qualche modo espropriata questa mappa. La mappa viene attribuita a un altro, che peraltro nella verità storica è il vero autore di questa mappa che esiste, e quindi la vicenda del mio cartografo a un certo punto diventa la vicenda dello scontro tra un'idea illuministica e razionale di mappatura della realtà, e invece il farsi della storia, che con le battaglie, che con la politica eccetera fa saltare tutte le mappe, tutti i confini, tutti gli ordini. Quindi ecco, questo era la cosa che mi interessava, cercare di prendere una vicenda che fosse esemplare di un momento in cui la storia implode, perché di fatto quello che io credo accada in quel passaggio di anni è proprio la fine di un'idea della razionalità della storia, un'idea che è un po' illuministica, un po' hegeliana, ed è l'ingresso nella modernità, nella contemporaneità, in una sorta di entropia selvaggia, no? E allora insomma questo non è un romanzo storico, è una specie di requiem per il romanzo storico, è un requiem per la storia, è la fine di un sogno della storia, e anche la fine di un sogno dell'Europa peraltro. Infatti questo Serge Victor, questo personaggio appunto inventato, questo cartografo di fantasia, possiamo dire è un illuminista, è uno molto razionale tra l'altro, è uno che attraverso la mappa vuole un po' contenere, controllare, dare un ordine alla realtà, e come accennavi tu, in realtà poi la storia, i fatti si ribellano quasi all'ordine e vanno un po' per i fatti loro. Ma questa è una cosa che a me affascina profondamente dal punto di vista narrativo, prendere un metodo, una idea razionale della realtà, che può essere quella del cartografo, ma io molti anni fa ad esempio scrissi un libro su Bobby Fischer, lo scacchista, no? Uno che voleva controllare la realtà, anzi isolarsi dalla realtà giocando soltanto a scacchi, e poi mettere a confronto questa idea razionale del mondo, questa idea di controllo della realtà con la storia, che è pura imprevedibilità, che è puro caos, appunto, che è pura impossibilità di calcolare le conseguenze delle nostre azioni. È per questo, nel senso, a volte quando si parla, diciamo, dell'importanza della storia nel romanzo, lo si fa in modo un po' retorico, dicendo dobbiamo recuperare il senso della storia, il senso del passato, il senso della memoria. Benissimo, però non è questo quello che fa la letteratura, o perlomeno non è questo quello che fa la letteratura per me. Quello che a me interessa quando parliamo di storia è ragionare sulla storia come paradosso, come la cosa che, come dire, unisce tutta l'attività degli vari singoli esseri umani, perché la storia è fatta dal nostro interagire, però smentisce anche tutti i nostri piani. Insomma, la storia è una serie di smentite continue. Uno progetta qualcosa e regolarmente, qualche mese dopo, qualche anno dopo, qualche minuto dopo, scopre che i suoi piani sono destinati a naufragare. Allora, quindi, questo gioco tra i progetti razionali e gli esiti irrazionali o imprevedibili a me affascina molto, anche perché io sono come dire, vengo da una tradizione, da una mentalità che invece ha l'idea di governare la storia, ancora un po' ci crede anche se ci rinuncia. E allora che cosa mi affascina? Insomma, non crogiolarmi in quest'idea, beh, tanto non c'è razionalità, tutto va a caso, no, è provarci sempre, fallire e registrare i vari codici del fallimento, che sono i codici del fallimento in questo caso dell'illuminismo, della cartografia, della politica come tentativo di cambiare il mondo. Beh, anche umanamente Serge Victor sembra insomma uno sconfitto alla fine, perché adesso non entriamo troppo nei particolari della trama, però lo troveremo a un certo punto a fare tutt'altro mestiere, il giardiniere, poverino, anche senza una gamba, eccetera eccetera, quindi in una situazione di sconfitta tutta. I suoi progetti vengono di fatto disfatti. Tutti i suoi progetti vengono disfatti, anche quelli esistenziali, più esistenziali, personali, certo, anche intimi, sentimentali. Intimi e sentimentali, però vengono tutti disfatti secondo un criterio che secondo me è interessante, cioè con un passaggio a un nuovo ordine di razionalità, nel senso che lui non è che semplicemente fallisce perché sbaglia qualcosa lui, non è tanto questo, è perché il mondo gli cambia intorno in modo velocissimo, ed è questo quello che, cioè io perché ho scritto questo romanzo ambientandolo al passaggio tra 700 e 800, perché quello secondo me è una fase, proprio un crinale storico in cui gli individui che hanno potuto vivere in quella stagione si sono visti improvvisamente cambiare il mondo in modo impressionante attorno a loro, come se appunto vivessi proprio sul crinale della storia. Vedi, e Serge Victor lo interpreta perfettamente, lo questa... interpreta oppure lo subisce più sì, che altro, cioè, questa lotta c'è quasi condannato, fra... c'è condannato. Più che un romanzo storico, a questo punto potremmo definirlo quasi un romanzo filosofico? Ma questa è no, diciamo, no, o forse sì, nel senso che a me affascina molto la parte filosofica, nel senso che all'inizio io parto citando una frase di D'Alembert dell'Enciclopedia, che dice insomma la mappa delle conoscenze, che può essere appunto l'ordine delle conoscenze, l'albero delle conoscenze, che può essere raffigurato come un grandissimo mappamondo, stiamo attenti che a un certo punto si intorcina e può diventare un labirinto. Questo lo dicono già gli enciclopedisti, quindi nel punto più alto della credenza nella dea ragione, per così dire. E allora sì, forse nel libro c'è il tentativo di far vedere come la mappa diventa labirinto, però ecco, in questo senso è un romanzo filosofico, perché ci si misura costantemente con le idee, cosa che io credo debba fare la letteratura, perché non se ne può più della letteratura, come dire, intimista, che ti racconta guarda l'ombelico, oppure che cerca di rendere magica la realtà con dei trucchetti più o meno corretti, o nella letteratura finta ingenua in cui metti in scena dei personaggi che hanno un livello, come dire, di comprensione del mondo molto inferiore al tuo di romanziere, no, di scrittore. Io invece penso che con le idee bisogna misurarsi. E questo era Vittorio Giacopini con La mappa, pubblicato dal Saggiatore. Anche per oggi è tutto, in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, e se volete essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.